frase fatta, ma da me trova rispetto. Senza te tutti questi anni come ho fatto? Travolto da una bolgia di persone tutto uguali, schiavi delle mode, davidi come maiali. Quante mani ho stretto, poi le pacche sulle spalle. False, un modo per tenermi per le palle. Palle nella testa dalla noia camuffate, mascherando col sorriso la mia voglia di scappare. Parlando mille lingue l'ho dovuto fare, come un disperato tentativo di farmi accettare. Ma sei arrivata tu che mi hai chiesto di parlare, leggendo la mia voce come musica da ascoltare. Sei come Colosseo per Roma, il Duomo per Milano, sei pura come pioggia sulla pelle, come i canali per Venezia, per Napoli il Vesuvio, un tetto sulla testa sotto sto diluvio. Portavo, cambiato totalmente la maniera in cui guardavo le cose, come nelle rose io notavo solo spine. Tu sei il profumo, la sostanza di ste rime. Persone che ti chiamano ma solo quando servi, ma quando chiedi aiuto se ne stanno tutti fermi. Mi liberi da questa gabbia, rendi fragili paure tanto quanto dei castelli di sabbia. La mia vita è un foglio bianco ma tu vivi nei colori, mi spingi verso luce pure nei momenti neri. Mi dici di sognare quando gli altri vivono, se la vita da veleno sei il mio personale antidoto. Sei mura Venete per Bergamo, la torre per Pisa, sei come l'acqua fresca nel deserto. Tu sei la mole per Torino, Giulietta per Verona, il simbolo della mia vita ancora vola. Sei